Il pasto nudo. Cibo tra realtà e immaginazione. Di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. I morti ti prenderanno, Barbara. Smettila, sei un ignorante. Ti prenderanno, Barbara. Su, andiamo, non fare il bambino. Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva. Bada che ti sente. Eccolo, eccolo, io me la batto. Johnny! La lettura contemporanea più frequente, più presente nel rapporto fra mostro e cibo è quella degli zombie. È un'invasione di morti viventi. Rispondete, venite fuori se riuscite a sentirmi. È inutile, amico. Non c'è nessuno vivo. Li senti quanti sono? Sono migliaia. Dio mio, è spaventoso. Improvvisamente accade una catastrofe per cui cominciano a camminare i morti e i morti sono affamati di vivi. Dovrei darle in pasto a quei cannibali. Naturalmente è tutta una situazione impossibile. I morti non potrebbero camminare, non si potrebbero nutrire, però è bello pensare che a un certo punto dobbiamo contenderci quei pochi avanzi della civilizzazione industriale, quindi andare a scartabellare nei supermercati, a cercare cibi a lunga conservazione, ma sempre con il machete in mano e con la pistola al fianco, perché un morto vivente potrebbe scambiare noi stessi per il proprio pasto. Queste creature non si possono considerare esseri umani e non si uccidono tra di loro. Si nutrono soltanto di carne viva. Hanno poca intelligenza e nessuna capacità di ragionamento. Fabio Giovannini, studioso di immaginario fantastico, gotico e noir, autore del volume Mostri, protagonisti dell'immaginario del Novecento, da Frankenstein a Godzilla, da Dracula ai cyborg, Castelvecchi Editore. Gli zombie della tradizione popolare, perché appunto come tanti mostri del nostro immaginario nascono da delle credenze, da delle superstizioni, in realtà sono semplicemente dei morti che tornano in vita tra virgolette dopo la morte, e non si parla di una forma di cannibalismo. Invece lo zombie tipico del cinema, dei fumetti e degli altri media più recenti è sicuramente caratterizzato da sul suo desiderio spasmodico di divorare esseri umani vivi. Perché mangiate le persone? Persone no, cervelli. Solo cervelli? Sì. Perché? Dolore. Che dolore? Dolore di essere morti. Essere morti da dolore. È atroce, ti senti decomporre. Mangiare cervelli. Che ti fa sentire? Fa diminuire il dolore. E questo ci riporta a un grande tabù, forse il tabù principale oggi, che tanti tabù vacillano, ma quello del cannibalismo sicuramente non sembra diminuire nella nostra società del terzo millennio. Gli esseri umani non mangiano gli altri esseri umani. Non dobbiamo essere indotti a credere che costoro siano membri della nostra famiglia o nostri amici. Non lo sono. Sostanzialmente lo zombie cinematografico in particolare lo vediamo soltanto aggirarsi barcollando per le nostre città o per le campagne in cerca di qualcosa da mangiare, e quello che lui vuole è un altro essere umano. È un morto privo di qualsiasi volontà se non di questo desiderio di alimentazione, e quindi in questo è molto legato proprio al cibo, al mangiare. Non hanno bisogno di sangue né di organi interni. A questo ho asportato tutti gli organi. Rimangono solo le membra e il cervello, eppure funziona. Vede, vuole prendermi, vuole cibo. ma non ha stomaco. Quello che mangia non lo può nutrire. Resta solo l'istinto, profondo e primordiale istinto. Se non mangiasse, lo zombie deperirebbe, perderebbe la sua capacità di sopravvivere. Questo non è molto ben spiegato né dai film, né dai fumetti, né dai telefilm come Walking Dead, l'ultimo telefilm di successo su questo argomento. Lo zombie è stato anche visto come una possibile metafora dell'uomo consumista dei nostri tempi, che consuma in modo compulsivo, e questo soprattutto grazie all'effetto sulla nostra fantasia di un film in particolare, Zombie, appunto, titolo mai più esplicito e preciso, film di Dario Argento e Giorgio Romero. Queste creature sono guidate soltanto da puro istinto emotivo. Restano alcune capacità elementari e hanno reminiscenze di quando erano in vita. In Zombie c'è una scena rimasta celebre in cui un'orda di morti viventi pressa le porte chiuse di un grande supermercato con la compulsione a entrare dentro questo centro commerciale dove appunto ci sono tutti i beni di cui i vivi vogliono appropriarsi e che sono nei loro sogni. In qualche modo anche da morto questo cittadino del nostro tempo cerca di andare là dove si consuma. Sono ancora lì. Cercano noi. Lo sanno che siamo qui. Vogliono questo posto. Non sanno perché, ma se lo ricordano. Si ricordano che vogliono venire qui. A questa metafora si può aggiungere anche un'altra spiegazione che ha dato proprio Giorgio Romero. Lui invece li interpreta più come i proletari del nostro tempo, gli zombie, appunto ridotti a essere delle cose che in qualche misura lo distinguono dall'aristocratico vampiro, che invece è di tutt'altro ceto e con tutt'altre caratteristiche. Però anche qui siamo di fronte a possibilità di interpretazione molto vaste. E certo è che questa scena del film Zombie è stata poi ripresa in molte altre pellicole e telefilm, e quindi è diventata un po' una caratteristica dello zombie, che però in qualche modo ce lo fa anche vedere come un morto che tende a ripetere, a reiterare i gesti e i comportamenti che aveva da vivo, e ovviamente consumare è uno dei comportamenti che nella nostra epoca sono più caratteristici della nostra vita quotidiana, e quindi anche lo zombie continua a cercare di fare, anche se privo di volontà, quello che i vivi fanno. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Dobbiamo andarcene via. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa. Nelle prime letture, quelle più antiche, del fenomeno zombie, quando ancora non era diventato un fenomeno così diffuso, film, fumetti, serie televisive di grandissimo successo, c'era, non sa perché, il luogo comune che lo zombie attentasse al nostro cervello. L'unica parte appetibile, il boccone del re di ogni zombie, era appunto mangiare il cervello di un umano, ammesso che ce l'avesse. Ricette mostruose. Cervello alla Walking Dead, detto anche allo strogota. La credenza diffusa vuole che lo zombie si nutra preferibilmente di cervelli umani. È probabile che inconsapevolmente selezioni questo tipo di alimento perché distinto sia alla ricerca del suo raziocinio umano, che ha smarrito da quando vaga come morto vivente. Il cervello è comunque un alimento facilmente assimilabile e lo zombie ha problemi legati alla digeribilità di una pietanza, soprattutto perché nella maggior parte dei casi non ha più nemmeno lo stomaco. La ricetta che maggiormente si avvicina al probabile gusto di uno zombie si pensa possa essere quella del cervello alla fiorentina. La pietanza affonderebbe le sue radici in una terrificante memoria storica che ricorda molto da vicino le scorribande gastronomiche delle mandrie di zombie affamati. A Firenze si mangia cervello come riflesso condizionato di un'antichissima consuetudine dei barbari ostrogoti, che spadroneggiarono nell'Italia centrale agli inizi del VI secolo. Costoro pare fossero soliti divorare il cervello dei prigionieri nemici dopo averli uccisi. La ricetta è molto semplice e oggi è possibile sperimentarla solo sul cervello di un bovino. Si taglia il cervello a fette, si cuociono in acqua bollente, si passano con succo di limone prima di essere pastellate e fritte in olio extravergine fino a doratura completa. Gli ostrogoti all'origine, naturalmente, preferivano la classica tartare di cervello crudo, proprio come ogni zombie che si rispetti. Il pasto nudo. Signore, ti ringraziamo per questo cibo. Tu sia benedetto. Ma tu hai idea di quello che sta succedendo? Mi sono svegliato oggi. Ma sai delle persone morte, vero? Sì, ne ho viste molte. Fuori, sui marciapiedi, erano ammassate. No, non quelle che stanno a terra, ma quelle che camminano. Come quello a cui ho sparato oggi. Ti avrebbe attaccato, cercando di mangiarti, strappandoti la carne. Forse è la prima volta che ne senti parlare. Silvana De Mari, scrittrice di genere fantasy e psicoterapeuta. Il cannibalismo è stata la norma nell'età della pietra. Se noi rappresentiamo la preistoria come una linea lunga un metro, tutto quello che segue è uno sbaffetto in fondo alla linea. Quindi noi abbiamo un cervello che si è evoluto durante la preistoria. Durante la preistoria il cannibalismo era la norma. Uno dei peggiori filosofi che ci sia mai stato è Jean-Jacques Rousseau, con la sua delirante teoria del buon selvaggio. Il buon selvaggio non era buono, era uno che campava mangiandosi gli altri, perché è difficile acchiappare una gazzella, una tigre ai denti a sciabola, mentre una creatura umana è molto più facile da acchiappare. Non li avevo mai visti così prima, mai. Hai notato se avevo un piccolo osso legato sul braccio? Sì, mi sembra di ricordare vagamente. Era un indigeno della tribù dei Puka. Puka? I Puka sono estinti da anni, non possono essere loro. Ma perché siete così terrorizzati da questi Puka? Susan, nella loro lingua, Rarami significa montagna del dio cannibale. Vuol dire che i Puka erano cannibali? Sì, è così. Il cannibalismo poi è stato superato dallo schiavismo. Il nemico sconfitto in battaglia ha smesso di essere una derrata alimentare ed è diventato un produttore di derrate alimentari. Abbiamo fatto un passo avanti. C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6 e si chiamava Pollicino. Dovete sapere che la sera prima il boscaiolo e sua moglie avevano deciso in gran segreto di abbandonare i figli nel bosco perché non sapevano più come sfamarli. Pollicino però, nascosto sotto una panca, aveva sentito i loro progetti. Il cannibalismo è sempre stato il problema del bambino più piccolo. Il bambino più piccolo era il bambino a rischio, anche nelle fiabe il bambino più piccolo è quello che non funziona tanto. Il bambino più piccolo arriva dopo che mamma si è già affezionata ai primi due, non sempre avrà da mangiare. E il bambino più piccolo è quello che ha maggiore rischio di essere venduto alla fabbrica di tappeti o mattoni o di essere abortito nel nostro mondo assolutamente pieno di civiltà, e poteva anche essere mangiato. Eccomi, venite fuori, fatemi vedere. 7 bambini, come siete belli. Sì, ma sono anche magri, non penserai per caso di mangiarli così. Hai ragione, brava moglie. Prepara subito una bella cena per questi piccoli. Sai bene che a me piacciono grassi. Il cannibalismo è rappresentato anche in tutta la mitologia europea. Il mito di Crono che mangia i suoi figli, e il cannibalismo è soprattutto rappresentato nelle due terrificanti fiabe di Hansel e Gretel e Pollicino. Nelle grandi carestie, prima di morire di fame, si mangiano i cadaveri. I bambini muoiono per primi, o è più facile che siano acchiappati. Lo so che avrei dovuto farlo, ma non ho avuto il coraggio di chiedere agli altri di darmi un po' di frumento. E allora che cosa proponi di fare? Ormai non è rimasto quasi più cibo. Non penserai che io sia disposto a morire di fame? Non sarebbe meglio abbandonare i bambini nella foresta? cosa ti è salta in mente? Non sarei mai capace di fare una crudeltà simile. Ma dicevo per scherzo, caro. Vedrò di trovare un sistema per rimediare del cibo. Basta che tu non ti faccia più venire delle idee strane. Hai capito? Il cannibalismo è sicuramente esistito sul suolo europeo durante la terrificante guerra dei 30 anni. Avete presente il Manzoni? Bene, prendete la fame, la guerra e i pidocchi che c'erano a Milano, moltiplicate per 10.000 e avete una vaga idea di che diavolo stesse succedendo in Germania. È stato calcolato che alla fine dei 30 anni, un tedesco su 3 era defunto e gli altri 2 non potevano che essere sopravvissuti se non mangiando cadaveri. Il cannibalismo è esistito in Ucraina durante la carestia causata da Stalin. È sicuramente esistito nei gulag ed esistito anche nell'Unione Sovietica, al di fuori dei gulag, in alcuni simpatici esperimenti che fece Stalin, che erano cosiddetti esperimenti sociali. I cosiddetti adolescenti antisociali, erano dei poveri tristi che avevano rubato una patata in un mercato, venivano abbandonati in dei boschi per vedere come si creava una società da capo. Il cannibalismo del feto e del neonato è esistito anche nella Cina di Mao, nel momento in cui c'è stato il grande balzo in avanti che ha causato circa 20 milioni di morti di fame. A questo si aggiunge il cannibalismo rituale, ma quasi sempre le due cose sono fuse. Ci guadagniamo qualche proteina e poi ci guadagniamo anche il coraggio di quello che mi sto mangiando, eccetera, eccetera, ma c'è sempre anche una necessità di proteine. Noi siamo usciti dal cannibalismo grazie anche a quella geniale cosa che è la mungitura. La mungitura ci ha permesso di trasportare in periodi mancanza di proteine le proteine dei periodi ricchi senza dover uccidere gli animali, quindi senza restarne senza. La mungitura è quello che ci ha fatto fare il balzo e uscire dalla preistoria. Il cervello umano non funziona senza proteine. Devo dire, Hannibal, anche a nome del resto del gregge, perdonate, del consiglio della sinfonia, che queste soirée a casa tua sono sempre l'avvenimento più importante dell'anno. È vero? Ah, sì, sono sì. D'accordo. Non si può. Troppo gentile. Mi sento un po' in colpa a godere di una serata così piacevole mentre uno dei nostri musicisti è segnalato come persona scomparsa. Sì, poveretto. Ha un aspetto divino. Cosa c'è in questa Muse Bush? Se ve lo dicessi, temo che non lo assaggereste. Allora, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Stefano Morigi, storico e filosofo della scienza. Il cannibalismo non è una realtà che appartiene solo all'immaginario tetro, gotico o comunque dell'orrore, del terrore, né a situazioni estreme in cui gli umani si sono trovati per necessità a cibarsi dei propri simili. Il cannibalismo è una realtà antropologica e culturale che si intreccia alle storie, all'identità di popoli, di genti, di paesi. Un caso interessante è quello del Brasile. Il Brasile è stata terra di cannibali, o dovremmo dir meglio di antropofagi. Il primo testimone della loro presenza fu Amerigo Vespucci, ma un fatto significativo, proprio legato all'identità e alla storia del Brasile, risale agli anni 50 del XVI secolo. A quell'epoca il primo vescovo del Brasile era Dom Pedro Fernandes Sardigna, eletto vescovo di São Salvador da Bahia nel 1551, aveva 55 anni, poi si dimise nel 56 e sulla sua nave, la Nossa Signora de Ajuda, salpò per Lisbona. Il giorno successivo alla sua partenza l'imbarcazione si incagliò di fronte alle coste del Pernambuco, più o meno all'altezza del rio São Francisco. In 90 cercarono rifugio sulle coste brasiliane, riuscirono ad arrivarci, tra questi c'era appunto il vescovo, ma finirono nelle mani degli antropofagi e dunque vennero cannibalizzati, vennero mangiati, scoiati, vennero fatte rotte le loro teste e trovò, come dire, applicazione quel cannibalismo rituale già diffuso, che era anche appunto una pratica culturale che prevedeva di assorbire il nemico, metabolizzare il corpo estraneo per prenderne le parti buone, le parti forti. E il popolo feroce? Sì, quello degli Apeksha. Nessun uomo bianco li ha mai visti, e se qualcuno l'ha fatto, non è tornato vivo per poterlo raccontare. Guardi il suo tatuaggio. Sembra un sucurigio Reda. Esatto. È il figlio di uno Shim, un potentissimo stregone, ed è stato consacrato allo spirito del giaguaro. È stato catturato mentre praticava antropofagia insieme ad altri indios, e questo significa che si trattava di una cerimonia sacra per scacciare dalla foresta gli spiriti maledetti. In Brasile si intrecciano storie di etnie provenienti da tutti i continenti. In quegli stessi anni, questa volta Mario De Andrade, nel 1928 in particolare, scriveva un romanzo dal nome Macunaíma. Chi era? Era per i gesuiti del tempo delle colonie, Macunaíma era il grande malvagio, il dio e il diavolo dell'indio autoctono, il deus e diablo dell'indio autoctono. E lui riprende De Andrade questa figura facendone addirittura un eroe negativo, che parla una lingua mista fatta di tanti dialetti, presi da ogni regione e ogni classe sociale del Brasile. È il simbolo composito di una terra che non ha identità, che ha, perché ne ha tante, è attraversata dall'ansia e dal bisogno dell'identità. E allora il cannibalismo nella testa di Oswald De Andrade e di altri intellettuali che hanno, come dire, dato le mosse, dato le forme al movimento anche modernista in Brasile, che è la variante futurista, diciamo così, brasiliana, ha trovato nella pratica antropofagica, con una serie di importanti pubblicazioni, tra cui appunto quella della rivista di antropofagia, la strategia culturale, un po' come fecero a loro tempo gli antropofagi con il vescovo, di introiettare il male ottimizzandone le risorse. Capire chi è e chi poteva essere un brasiliano all'epoca doveva ammettere la sfida di cannibalizzare anche quella storia più indigesta. Così poteva nascere un nuovo orizzonte di essere brasiliani e un nuovo modo di pensare, un intreccio di identità in una nuova storia che da quel momento poteva incominciare.